arrivano le 8 in punto del lunedì, i figli a scuola di filato tutti a prendere il bus, avessi almeno un quarto d'ora per riprendere in mano con un bacio, una carezza, la mia storia di vita. E invece niente, tutto corre come un cortometraggio, ben montato senza sosta e senza pubblicità. Avessi almeno una chance, non dico proprio coraggio, cancellare la faccia, la carta d'identità. E mangio, bevo, piango, rido come pone la prassi, complimenti ed insulti sono soltanto parole. Ogni tanto qualcuno sommanza e più passi da un canale a un altro che ti informa se piove. E mia moglie cammina molto nervosamente dal salotto in cucina, è felice ma mente, perché sa che nei sogni della sua gioventù c'era un uomo, non un servo, che non la tocca più. Chissà se cambierà. La notte ci sogniamo di essere nudi nel mare, mentre ci baciamo il vento comincia a cantare, ci guardiamo e ridiamo senza altro da fare, non abbiamo paura e non dobbiamo parlare. Quanto costa il silenzio oggi un po' più di ieri, è salito lo spread, sono tassati i pensieri. Svegli già alle 3, la museruola quel sogno che cassetto non ha, vaga nell'aria e non so dove si adagerà. I miei capelli sono le azioni del lavabo del bagno, cadranno tutti a milioni, a me nessun guadagno. Eppure strano sentito che se perdo qualcosa c'è qualcuno che mi ama e mi regala una rosa. Ma quante spine ha. Tanti anni fa, l'evasore con